scrittore Alberto Arbasino scrive una lettera al Foglio per rischiarare un importante aspetto oscuro della recente storia del mondo. Dai documenti finalmente resi pubblici relativi ai colloqui fra l'allora segretario di Stato americano Henry Kissinger e l'allora presidente del Consiglio Aldo Moro, risulta che Kissinger fosse contrariato del fatto che durante i colloqui Moro dormiva, da grande statista. Mentre io non stento a crederlo, Arbasino invece rovista nella propria memoria e scova un episodio esemplare che ridia alla figura martiriologica l'antico splendore che, senza volerlo, peraltro, si è meritata. In realtà Moro era antipatico a Kissinger e ciò da antica data. Eh sì, dice Arbasino, nei primi anni 60, allorché Kissinger era soltanto un brillante professore di Harvard, come si usa dire fra persone di cultura, veniva spesso a Roma in cerca di contatti e di amicizie intellettuali. Forse mal informato, chiese allora un appuntamento ad Aldo Moro. Lo chiese invano perché Moro si reputava troppo occupato e ricevette in controproposta un bel incontro con il senatore Morlino. Ad una cena di intellettuali, poi presente Arbasino, Kissinger si lamentò della cosa e chiese se per caso non si fosse trattato di una diminution, che tradotto significava insomma che era ben conscio di essere stato trattato a pesci in faccia. Da qui l'astio duraturo, secondo Arbasino, fino al punto di documentare poi la falsa immagine di un Moro che, impegnato in delicatissime discussioni politiche, socchiude pian piano l'occhio di lince e si addormenta della grossa. Non contesto l'argomento di Arbasino e anzi dico che non ho alcuna difficoltà ad ammetterne la plausibilità. Come peraltro non ho alcuna difficoltà ad ammettere la plausibilità della testimonianza di Kissinger, perché è palese che i due episodi possono essere considerati indipendenti e che se proprio fra loro un rapporto ci fosse, sarebbe quello che l'appuntamento a Kissinger a suo tempo non venne concesso perché per l'appunto Moro dormiva. Mi interessa di più invece il seguito della lettera di Arbasino che, non contento ancora, si fa scrupolo di aggiungere, come dice lui, altre memorie di ieri. Dice allora che attualmente Gabriel García Márquez racconta gli accorgimenti di Clinton per ingraziarsi i più influenti scrittori, lodando il capolavoro di ciascuno. Clinton, tuttavia, non reggerebbe al confronto, a un confronto che conta, perché Norman Mailer riferì tempo addietro della superiore accortezza di Kennedy, incontrando lo scrittore, lodargli non tanto un bestseller, per esempio, come Il nudo e il morto, bensì Il parco dei cervi, che non aveva avuto successo. È indubbio che i due episodi messi a confronto celino dell'arguzia, ma mi chiedo cosa abbiano a che fare con il sonno arretrato o con l'agenda degli appuntamenti di Moro. Sotto la categoria di altre memorie di ieri, avrei potuto piazzarci di tutto, dal tentativo del re Guglielmo I di Prussia di uccidere il figlio Federico all'invenzione della Coca-Cola, peraltro a quanto sembra venne inizialmente pubblicizzata come tonico per il cervello e bevanda per intellettuali. Con una certa frettolosità si potrebbe archiviare questa appendice narrativa, questa di Arbasino, come un bisogno di risultare brillante, mantenendosi all'altezza del personaggio che si crede di essere. E almeno in parte non si sbaglierebbe. Ma correlato sotterraneamente a questo moto d'animo dell'uomo di cultura, c'è un istintuale tratto comune che tiene uniti sulla medesima barca Kissinger e l'appuntamento rifiutato da Moro, gli scrittori celebri e i presidenti americani furbi. E in un modo o nell'altro si parla ovunque, infatti, della frustrazione fondamentale dell'intellettuale, ovvero della sua paura di non essere riconosciuto a sufficienza. che le porte del potere non gli si spalanchino alla sola pronuncia del suo venerabile nome. Kissinger teme insufficiente l'accumulo di nobiltà intellettuale che grava sulla sua persona e il confronto con Gabriel García Márquez e con Norman Mailer, due che sono ricevuti da altrettanti presidenti americani, da questo punto di vista è rimasto inconfessato. Può dire molte cose soprattutto a Darbasino, che in proposito ha da nutrire i propri timori.